Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, bentornati, ben ritrovati a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Oggi parliamo di valute e dintorni. Lo sapete, noi vi segnaliamo quasi sempre le inchieste e i lavori di maggiore interesse, almeno per il nostro programma del Sole 24 Ore, ma spesso rimaniamo molto incuriositi e affascinati anche dai lavori della concorrenza e rubiamo amichevolmente i loro lavori. Giovedì scorso Panorama Economy, il settimanale economico finanziario di Panorama, ha pubblicato una storia che in copertina ha guadagnato un titolo direi piuttosto significativo. Non abboccare, investire in valuta al bar, succede anche questo. Economy lo ha scoperto seguendo su internet le proposte di società disinvolte o addirittura fuori legge che promettono super rendimenti comprando euro e dollari. E allora, anche alla luce delle oscillazioni valutarie piuttosto forti che stiamo vedendo, ieri lo abbiamo ricordato più volte, l'euro è finito ai suoi minimi storici nei confronti del franco svizzero e continua ad avere forti difficoltà anche nei confronti del dollaro. Abbiamo voluto affrontare questo argomento intanto con gli autori dell'inchiesta di cui vi parlavo, Roberta Caffaratti, caporedattore di Panorama Economy, e Andrea Telara, collaboratore del settimanale, che saluto e sono qua in studio con me. Roberta, ciao, benvenuta. Buongiorno. E ciao anche ad Andrea. Buongiorno a tutti. Che ci ha da raccontarci un'esperienza molto interessante proprio relativamente anche alla stesura di questa inchiesta, perché l'ha vissuta quasi sulla sua pelle e poi ci racconterà tutto. E però, siccome vi dicevo, l'investimento in valuta, ma lo abbiamo ricordato tante volte, Salva Danaio, che è rischioso e presenta anche degli aspetti che vanno ben compresi prima di avventurarsi su questo terreno, non è un mondo popolato solo da operatori poco trasparenti che sono quelli descritti in questa storia appunto di Panorama Economy, poco trasparenti a dir poco, qualcuno è addirittura completamente fuori legge. Esistono delle piattaforme del tutto accreditate che permettono di operare in valuta in modo invece assolutamente trasparente e anche profittevole, ovviamente in maniera ragionevole. Oggi vi daremo anche qualche indicazione su come fare per avere un approccio corretto e prudente su questo mercato. I nostri interlocutori: Alessandro Capuana, amministratore delegato di Gmarkets, benvenuto. Buongiorno. E Anas Jensen, senior associate di Saxo Bank. Sì, ho detto tutto correttamente perché qua il suo nome mi spaventava un pochino, quindi benvenuto. Grazie. Anche a lei. Allora, tanti ospiti, direi di partire immediatamente con il tema di questa mattina, ricordandovi che potete interagire con noi chiamandoci all'800240024 o scrivendoci al 349-238-6666. Prima di partire con la chiacchierata con gli ospiti di Salva Danaio, diamo un'occhiata a quello che accade stamattina in borsa. Sulle valute, ovviamente, attenzione sempre piuttosto forte. Ecco, abbiamo l'euro che sul dollaro è finito a 1,34,94, 1,43,20 il rapporto di cambio con il franco svizzero. Le borse stamattina sono piuttosto positive. In Europa, incuranti della debolezza dell'euro, Parigi guadagna lo 0,6%, Francoforte più 0,43%, Londra più 0,80%, Milano più 0,44%. Sul FTSE MIB, Saipem a trainare la seduta più 3,43%. Il gruppo ha ricevuto un giudizio positivo degli analisti di Morgan Stanley. Atlantia, la ex Autostrade, ne ha ricevuto invece uno positivo dagli analisti appunto di Societe Generale, più 1,77%, STM più 1,48%, Exor più 1,12%, questi rialzi più forti. In ribasso invece Unipol, che perde un punto. Intesa continua a scendere dopo la pubblicazione dei risultati avvenuta venerdì scorso, il titolo non si risolleva, anche oggi perde quasi un punto. In pregilo meno 0,8%, Pirelli meno 0,2%. Lasciamo la borsa, ma rimaniamo insomma sui mercati, oggi fondamentalmente su quelli valutari. Allora, Roberta Caffaratti, collega di Panorama Economy, ti chiedo subito come mai siete venuti a contatto con il mondo parallelo delle valute internazionali, mi viene da dire. In realtà la responsabilità in qualche maniera, ma forse anche il merito, lo dobbiamo alla Consob. Sì, in un certo senso sì, perché avevamo visto appunto che nel 2009 la Consob aveva ispezionato 86 società che facevano questo tipo di mestiere. Quale? Quello di permettere la compravendita in valute? Sì, permettere, più che altro erano degli high yield investment program, che non è una parolaccia ma è una sigla che in italiano vuol dire programmi di investimento ad alta rendita. Sostanzialmente li ha ispezionati perché erano trovano tutti su internet, e ne ha poi segnalati sei in maniera, diciamo. Ma perché la nostra autorità sui mercati che si è interessata a questi siti? Perché aveva riscontrato che operavano anche in Italia e permettevano anche ad investitori italiani. Esattamente, non avevano l'autorizzazione, quindi andata a guardare esattamente che tipo di proposta di investimento andavano a fare, e in alcuni casi appunto ha scoperto delle realtà particolari con sedi in paesi quasi sempre stranieri, tra cui appunto Panama o il Costa Rica, e che offrivano appunto dei rendimenti molto elevati che non potevano essere giustificati dai tassi del mercato. Quanti risparmiatori italiani sarebbero finiti in queste reti? Io credo che sia assolutamente impossibile questo fare delle stime, però ci sono anche delle, non lo possiamo sapere, però noi abbiamo seguito in particolare la storia di uno di questi che si chiama Forex Macro, perché all'inizio di questo lavoro l'avevamo messo nel mirino, e proprio mentre stavamo facendo questo lavoro il sito è scomparso dal web, nel senso che chi l'aveva attivato non si sta facendo più trovare. La cosa è scoppiata prima in Spagna e ora sta scoppiando anche in Italia, dove sono nati dei blog di persone che hanno investito e hanno perso tutto il denaro sostanzialmente. Infatti Andrea Telara è l'altro coautore di questa inchiesta, è andato direttamente sul campo, adesso ci racconterà anche con che risultato, perché ha incontrato direttamente alcune figure, mi viene da dire quasi un po' losche, però forse in altra maniera non sarebbe possibile definirle. In ogni caso i blog attivati, ci diceva Roberta, sono tanti, e avete scoperto anche che ci sono delle persone che in Italia hanno tentato di investire magari nell'ipotesi di veder triplicare i loro risparmi, i loro investimenti nel giro di pochi giorni, ma qualcosa tipo anche a testa di 100.000, 80.000 euro, insomma delle cose assurde. Sì, abbiamo scoperto che le cifre che questi signori hanno depositato sono cifre considerevoli. Ora la speranza è che siano una quota minoritaria del loro patrimonio, però sicuramente si tratta di 80-100.000 euro. Probabilmente allettati da questo tipo di offerte, anche dal fatto che qualcuno testimoniava di aver ottenuto dei rendimenti con questo tipo di programmi di investimento che in effetti inizialmente vengono erogati. Il problema è che dietro queste società spesso si nasconde quello che è ormai famoso, lo schema Ponzi. La memoria Madoff e dintorni negli Stati Uniti, sì. Si pagano i soldi inizialmente con quello che viene raccolto dagli investitori, cioè questi interessi mirabolanti che vengono promessi sono poi pagati in realtà con un serbatoio che si riempie sempre di nuove sottoscrizioni. Quando il serbatoio comincia a svuotarsi, cioè perché più persone cominciano a chiedere di disinvestire, esattamente, allora il meccanismo salta e la società, che è una società residente all'estero, come si dice, scappa con la cassa, si fa perdere le proprie tracce. I siti chiudono ecco. E chi ha depositato i soldi nel momento del crack rimane con un pugno di mosche. Abbiamo ricordato di Forex Macro, sede a Panama, ma c'è anche la curiosa, chiamiamola così, tanto per riderci un po' su, sperando naturalmente di non avere all'ascolto nessuno che abbia tentato un investimento con questa società, Nano Money Corporation. Addirittura, Roberta, questi si erano inventati un meccanismo. Questi sono ancora, sono ancora attivi e offrono interessi dell'1,8% al giorno. Che quindi sono anche, quindi più di 5.000 euro al mese se uno investe 10.000 euro, e promettono di scoprire in giro per il mondo società molto promettenti che fanno di mestiere solo le nanotecnologie. In realtà però poi sul sito non si sa dove investono, insomma. E infatti poi cercheremo magari anche di ritornare sul meccanismo di reclutamento dei clienti, vi spiegheremo come funziona in modo che possiate possibilmente non cadere in queste trappole, però c'è qualcuno che ci è caduto. Allora, io prima di sentire Capuano e Jensen, perché dovremmo dare anche un po' di istruzioni per l'uso, per agire correttamente, per tentare anche di investire in questo mercato che è sicuramente molto interessante, ma ci sono delle modalità assolutamente tranquille e sicure per poterlo fare senza sperare in investimenti irrazionali e irragionevoli come quelli che abbiamo descritto. Alberto da Isernia, buongiorno. Buongiorno. Che cosa le è successo? Io sono entrato nella rete, insieme a tanti altri in Italia, tantissimi, per valori quantificati sicuramente di 1 milione di euro, perché poi tramite blog ci siamo conosciuti, abbiamo parlato tra di noi e quindi abbiamo condiviso la nostra esperienza. Certo, e chissà magari quanti per vergogna non lo fanno, e quindi magari la stima potrebbe essere anche... Sì. diversa. Diciamo che abbiamo tutti una caratteristica, hanno tartassato, perché per quanto mi riguarda è così, ci hanno tartassato per un lungo periodo, ad alcuni anche per 4 mesi, a me per un mese intero, tra l'altro in un periodo in cui avevo bisogno di essere seguito da professionisti, per cui per me... Ecco, poi sono bravi ad associare le proprie, chiamiamola, la propria impresa, chiamiamola così, sempre a persone di fiducia. Io chiesi appunto la mia necessità di essere seguito da un promotore, mi hanno fatto incontrare con una promotrice, ecco, di Roma, per esempio, che era ricollegata ad una banca esistente, quindi mi sono incontrato Alberto, con lei, però lei non c'entrava nulla. Sì, beh, adesso su questo bisognerebbe anche verificare, però Alberto, le posso chiedere quanto ha investito? Un attimo, sì. Mi permetto di dire, non c'entra la banca, però loro associano poi le loro azioni a persone conosciute che... Ti fanno pensare che sia tutto lecito, tutto sono assolutamente sì. No, ma aspetti un attimo Alberto, Roberta, sì. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, perché è un meccanismo, diciamo, che abbiamo sperimentato anche noi, perché quando Andrea appunto si è recato alla convention di questa società di cui poi racconteremo, parlavano di una banca realmente esistente e di una persona che realmente ha lavorato per un grosso gruppo bancario europeo e che adesso, diciamo, ha fondato questa banca tedesca che esiste e quindi diciamo è assolutamente autorizzata nel suo paese. Certo, poi le persone invece che raccoglievano il denaro quel giorno nell'hotel di Linate forse non lo sappiamo, ecco. Sì, il problema il problema è che c'è tra l'altro qualcuno che comunque disinvestendo è riuscito a salvare i suoi risparmi. Il problema è che arriva tardi ma l'alloggia, come si dice, Andrea. Sì, diciamo rimane col cerino acceso in mano, per usare un'espressione gercale, cioè nel momento in cui questo meccanismo di investimenti truffaldino o diciamo così molto disinvolto salta, le persone che in quel momento hanno depositato i soldi e li hanno ancora investiti diciamo rimangono senza speranze, perché la speranza di riavere i soldi indietro qui sono nulle, perché i soldi in realtà non ci sono. Alberto, l'ultima domanda a lei, cosa sta facendo adesso? Ha perso molto, molto denaro con questa operazione? No, diciamo che io sono stato un po' attento, avevo anche conosciuto di persona l'interlocutore che poi si è rivelato avere un falso nome. L'ho anche denunciato, le autorità però in Italia non sono interessate a queste cose. C'è anche, tra l'altro, Alberto, se vuole ci scriva, magari gireremo la sua testimonianza ai colleghi di Panorama Economy, facciamo questa joint venture questa mattina insieme, magari insomma cerchiamo di approfondire anche queste dinamiche che ci stanno un po' anche preoccupando, sperando di limitare al massimo i danni e per i coinvolti, per quelli non so se sia possibile, ma magari chi ha tentato di agire su questi mercati non si lasci tentare appunto da questi passaparola, da queste pubblicità che sono il più delle volte ingannevoli, perché è impossibile con questi livelli di tasso di interesse ottenere certi rendimenti, per cui affidatevi ad operatori accreditati sul mercato. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Salvadanaio oggi ha rubato, un'inchiesta condotta da Panorama Economy la scorsa settimana, che avrà peraltro credo anche un nuovo richiamo questa settimana, poi i colleghi interessati ce lo anticiperanno. È andata a rubare appunto questa inchiesta che ha voluto un po' così esplorare un mondo parallelo nel panorama degli investimenti in valuta. Panorama Economy ha scoperto che su internet si possono trovare molte proposte di società fuori legge, perché non possono essere definite altrimenti, che promettono super rendimenti comprando euro e dollari. Molti italiani hanno abboccato, hanno perso anche un sacco di denaro, perché naturalmente molte di queste società sono fallite, stanno fallendo, altre invece continuano indisturbate ad operare. Allora noi stamattina stiamo cercando di fare un po' di chiarezza, anche di cercare di capire come si deve evitare appunto di cadere in queste trappole. Ci sono anche operatori assolutamente accreditati sul mercato. Allora, se ci interessa l'investimento in valuta, prima di andare a cercare su Google qual è l'operatore che fa al caso nostro e prima di essere allettati un po' dal super rendimento 5-10% in un mese, magari accontentiamoci di una promessa di rendimento un po' più modesta e andiamo a cercare appunto gli operatori che sono del tutto affidabili, come vi dicevo, accreditati. Allora, ne abbiamo due stamattina. Anna Jensen, Saxo Bank, sì, benvenuto. Grazie. Allora, Che cosa le viene in mente quando sente le esperienze terribili anche di malcapitati investitori che finiscono in queste trappole? Perché già immagino voi siete diversi sul mercato, avete già da affrontare la vostra concorrenza, che è assolutamente leale e corretta fra operatori accreditati, e poi dovete affrontare anche quella del tutto scorretta invece di operatori fuori legge. Ok, ma mi fa preoccupare un po', perché un privato che a 30 anni magari ha iniziato a mettere da parte dei soldi e ci si è impiegato effettivamente per raccogliere i risparmi, e a quel punto anche il fatto di decidere come investire questi risparmi non dovrebbe essere una cosa che si fa in 448. Invece infatti, la preparazione è la parola chiave, penso, in due situazioni diverse. Allora, innanzitutto nella situazione in cui si affidano gli investimenti capitali agli altri per investire, ma anche nella situazione in cui si vogliono investirli da soli direttamente. E poi insomma dobbiamo stare molto attenti anche a dare questa raccomandazione: chi ci promette rendimenti assurdi in un contesto di mercato in cui veramente quasi niente rende niente, nel senso, a parte la borsa, ma bisogna anche aspettare qualche mese, bisogna sempre diffidare, immagino, a meno che non si operi in maniera speculativa. E davvero è proprio trader Alessandro Capuano, IG Market, dobbiamo anche dirlo con molta chiarezza, forse il retail, il piccolo risparmiatore, è bene che dal mondo delle valute non sia propriamente vicino. Assolutamente sì, l'investimento va scisso, il discorso, qualcosa è quando parliamo di questi programmi di investimento, questi sono veri e propri millantatori di performance, perché se i bot mi rendono lo 0,36 e qualcuno mi dà l'1,8% al giorno, c'è qualcosa che non va. In finanza c'è una certezza: nessuno ci regala nulla, quindi questo dovrebbe essere il primo campanello d'allarme. Altro discorso invece sono operatori che operano sul Forex, come noi e Saxo, ad esempio, IG e Saxo, che offrono un servizio cosiddetto di execution only, ossia dove l'investitore fa trading online e privatamente, indipendentemente, decide se operare sull'euro, sul dollaro, su quant'altro. Qui il discorso cambia, ci sono sicuramente dei rischi anche in questo caso, non è un prodotto adatto a tutti, ma soprattutto è bene comprendere i meccanismi di funzionamento del mercato, e tutti gli operatori, chiamiamoli accreditati, autorizzati, che hanno interesse a sviluppare il mercato, offrono un programma di educational, ossia noi ai nostri clienti non forniamo una piattaforma di negoziazione senza averli preventivamente informati con un vero e proprio corso online che gli spiega come funzionano le valute, quali sono i profitti connessi, ma anche quali sono i rischi connessi, certo, a quel tipo di operatività. E quindi cerchiamo di creare un consumatore consapevole, perché poi è quello che può tra virgolette far crescere il mercato. Certo. Jensen, torno a lei, qual è la sensazione che avete, che comunque viene a cercare il vostro mercato per investire, chiamiamolo così, la vostra piattaforma, la vostra attività, un risparmiatore, un investitore evoluto, oppure c'è anche chi di investimento in valuta non sa niente e tenta anche a piccoli passi di avvicinarsi, sì, ad un settore come questo? Ma noi abbiamo investitori a livello istituzionale che sono consapevoli a più non posso, ma poi ci si avvicina anche l'altra parte della clientela, è assolutamente inevitabile. E quindi torno a dire che la preparazione è la parola chiave in questo caso. Facciamo proprio questa scissione: c'è il caso in cui mi avvicino ad uno che vuole fare gli investimenti per me, in quel caso là È inevitabile che io devo prepararmi molto bene, quindi devo andare sul sito, ma un sito può essere gestito da un paese anche molto lontano, senza nessun tipo di regolamento, ed è una cosa che possono fare in tutti, quindi là bisogna iniziare a telefonare, ci sono persone dietro che mi possono rispondere quando ho dei dubbi, e se queste cose non sono accertate, allora è bene che rimanga lontano. E invece questo era per il caso in cui affido i capitali a qualcun altro che fa gli investimenti per me. Invece per il discorso formazione, anche lì questo è fondamentale. Parliamo proprio dei meccanismi che vanno compresi. Cioè, se io do una piattaforma a una persona e gli do leva 200 e lui dice bellissima, là c'è da preoccuparsi. Certo, perché cosa vuol dire Capuano leva 200? Questo è uno dei problemi, è che la gente è attirata dalla performance positiva. Leva 200 vuol dire semplicemente che se io investo un euro potenzialmente ne posso muovere 200 sul mercato, che è una peculiarità del Forex, e questo è uno dei motivi per cui questi schemi Ponzi che Panorama prima, ha visto si vanno a concentrare. Questo è un bene e un male, Per esempio, noi impediamo, se il cliente non ha un'esperienza, un'altra cosa importante è diffidare di tutte quelle strutture che non chiedono l'esperienza. Tutti gli attori regolamentati, prima di iniziare un rapporto con un nuovo cliente, devono chiedere redditi, devono chiedere obiettivi di investimento, devono chiedere l'esperienza. Se i nostri clienti non hanno l'esperienza a sufficienza, noi abbiamo un sistema che limita l'esposizione che può prendere il cliente. Quindi non gli permettete banalmente, per esempio, di investire più di un tot di denaro? No, ci sono due tipi di conti. C'è un conto a rischio limitato, dove il cliente è obbligato ad inserire degli stop loss per quindi ogni transazione. E non può perdere, esatto, non può esatto. E questo è rivolto proprio a quei clienti che non hanno, secondo noi, quell'esperienza sufficiente da poter investire in maniera autonoma sul mercato. Volevo tornare agli autori dell'inchiesta di Panorama Economy. Roberta, ma siamo assolutamente sicuri che tutte le persone, anche che così sono rimaste invischiate in questi meccanismi truffaldini, quindi parliamo anche delle persone italiane, siano state delle persone completamente sprovvedute, che magari nel mondo degli investimenti non avevano mai avuto nessun approccio? Io non credo, forse era qualcuno che intenzionalmente cercava un rendimento di quel tipo e poi è rimasto. Ma sicuramente il rendimento attira moltissimo, no? Perché diciamo è anche un po' la molla che ci ha spinto a cercare su internet, è l'alto rendimento. Quindi noi abbiamo trovato questa società semplicemente, diciamo, mettendo sul Google la parola anche alto rendimento, per cui chi va a cercarlo trova questo. È chiaro che è giusto quello che dicevi tu prima, cioè in un mercato come questo, dove solo le azioni possono darti un grande rendimento, sempre che vada bene il mercato, è difficile che uno ti possa garantire l'1,8% al giorno, cioè è praticamente impossibile. Uh-huh. Volevo invece tornare al discorso che faceva Alessandro Capuano, perché Banca d'Italia ha messo sotto la lente queste piattaforme, anche le piattaforme, quelle che non sono, diciamo, autorizzate. Chiaramente ne ha segnalate, perché ce ne sono, e le abbiamo trovate nella nostra inchiesta, almeno un paio, che offrono una leva molto più alta di 200, la offrono di 400 addirittura, per cui tu puoi anche non averli questi soldi e li puoi rischiare tutti. Banca d'Italia le ha trovate, ma non può far niente, per esempio, per limitare la loro operatività? Le ha segnalate come non autorizzate, ma essendo, diciamo, domiciliate, residenti in Grecia sostanzialmente, possono continuare ad operare perché operano online. E una di queste, che si chiama iForex, negli ultimi 10 giorni sta pubblicizzando la sua attività direttamente su Facebook, quindi raggiungendo un numero grandissimo di persone. Di persone, anche perché, ecco, questa poi è un'altra distorsione dell'utilizzo del social network, che viene utilizzato per fare tutt'altro, per fare delle campagne elettorali, per fare delle campagne di promozione delle proprie attività, quindi anche questo ci finisce sul social network. Adesso ci torniamo, tra l'altro, allora, per chi invece volesse essere molto cauti verso questo mondo, pur volendoci operare, ci sono delle domande concrete dei nostri ascoltatori. Barbara da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascolti, un'informazione. Io attualmente sto operando con la demo, con un broker che mi sembra attendibile e italiano, che offre un servizio tipo Saxo Bank, Avafax, eccetera. Si può fare il nome? Facciamola, perché no? Allora, io sto operando con CFX, sì. Che opera comunque qua in Italia, e sto operando in demo e sarei intenzionata a farlo, diciamo, in live. Con demo, Barbara, che cosa vuol dire esattamente? Che operare cosa le stanno permettendo di fare? C'è una piattaforma, una simulazione? Praticamente è una simulazione, non perdo, non vinco realmente, però vedo come si muove indicativamente il mercato, quali sono i rischi, quali sono i tempi, eccetera, eccetera. È chiaro che dalla demo al live, anche con il trading, c'è la componente psicologica, eccetera, eccetera. No, sì, certo. Volevo sapere se esiste, perché ho cercato di trovare questi dati, però sono abbastanza difficili da trovare perché probabilmente... Come si è imbattuta in questa società, Barbara? Non ce lo ricorda, guardando, è stata avvicinata a un passaparola, è stato un promotore? Forum, perché io seguo anche un pochino il trading online, però in maniera molto, molto tenue, diciamo, un'attività che faccio ogni tanto, senza grande, non sono una trader, diciamo, professionista, ogni tanto faccio qualcosa. Allora, guardando sul trading, su alcuni forum abbastanza importanti, è saltata fuori questo discorso qua del Forex, e per curiosità ho provato a vedere. Proprio della piattaforma, c'è un corso, nel senso un corso online, uno si può scaricare, diciamo, tutto il manuale, che è un tomo da 300 pagine, per sapere. Andiamo a parlare di soldoni. Da fare o meno. Che tipo di promesse di rendimento le danno? Ma non è questo un po', è proprio trading online sul forex, compro euro contro dollari, dollari contro yen, eccetera, eccetera. Farlo così ogni tanto, giusto per arrotondare, sono capito dei rischi e di tutto, e volevo sapere se questo broker in effetti è attendibile, come mi sembra di aver capito che sia, insomma, nel senso che se poi un domani, insomma, ci fossero se effettivamente pagano poi la liquidità, diciamo, dei guadagni, e poi se c'è un sito dove possiamo individuare il nome degli operatori, anche su Borsa Italiana, su altri siti ufficiali, però ho fatto veramente fatica ad entrarmi, per cui vorrei sapere se c'è modo da poter verificare questa ferma cosa. Lì Barbara, sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Sì, parliamo di aziende di successo anche noi, ma a discapito di tanti piccoli incauti risparmiatori che volevano vedere magari nel giro di poche settimane triplicare a dismisura i rendimenti dei propri investimenti, invece sono rimasti ingabbiati in disavventure finanziarie. Stiamo parlando appunto di questi operatori che si possono trovare su internet, che propongono l'investimento in valuta in particolar modo, ma poi attraverso degli schemi che abbiamo già spiegato in realtà non fanno trovare un bel niente come rendimento finale a chi punta molto denaro, peraltro in certi casi, insomma, sono dei siti assolutamente fuori legge. Qualcuno continua ad operare, è stato messo sotto osservazione anche dalla Banca d'Italia nel nostro paese, ma essendo domiciliati all'estero più di quello non si può fare. Allora noi stamattina stiamo esplorando un po' questo mondo grazie ad un'inchiesta condotta da due colleghi di Panorama Economy. Barbara da Verona ci ha chiesto, ma insomma io mi sono imbattuta in un soggetto di questo tipo, mi pare che il lavoro che faccia sia assolutamente corretto, per adesso sto solo esplorando la sua attività, non ho ancora, come dire, investito nessun denaro. Andrea Telara, come si fa a sapere se questo soggetto è accreditato sul mercato? E poi io mi chiedo, ma se è un nome che non abbiamo mai sentito? Ce ne sono tanti che operano in questo settore che conosciamo benissimo, Fineco, IV Bank, i due operatori che abbiamo con noi, Saxo Bank, IG Markets, ce ne sono tanti, molto noti, perché bisogna farsi tentare da un benemerito sconosciuto? Beh, è vero, purtroppo il passaparola ha un effetto molto più efficace, diciamo, della pubblicità o anche di articoli di giornale. Ma la cosa prima da fare è di verificare se questi operatori sono autorizzati a operare nell'intermediazione su cambi e hanno le giuste autorizzazioni dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del testo unico bancario. L'informazione è facilmente reperibile, si può fare anche una ricerca nel sito della Banca d'Italia con un apposito motore di ricerca, poi si può guardare nel sito della Consob se c'è la necessità di altro tipo di autorizzazioni. Il problema... voglio dire che intanto una bella lista di soggetti stravaganti l'avete fatta anche voi con il vostro giornale, continuerete ad esplorare un ago nel pagliaio? Non è sicuramente completa. Non è completa, esattamente. Allora, Purtroppo bisogna rilevare che anche intermediari autorizzati a volte, diciamo, espongono a determinati rischi, perché la cosa che abbiamo verificato noi è che ci sono società autorizzate regolarmente dalla Banca d'Italia a operare nell'intermediazione sui cambi, però cosa fanno? Non sono piattaforme di trading che consentono a investitori perfettamente consapevoli di operare, sono persone che vogliono gestire il denaro di risparmiatori, spesso piccoli risparmiatori. E come dicevi tu in apertura, li abbiamo anche incontrati di persona, perché indagando su non ti sei spaventato? Ma no, diciamo, sono persone molto molto affabili e molto convincenti. Abbiamo dovuto recitare un po' la parte degli investitori sprovveduti, e loro ci hanno promesso una gestione del denaro sul forex, dicendo che avrebbero pensato a questo solo degli esperti, che a noi spettava soltanto di versare i soldi. Certo. E il problema è che spesso queste gestioni, che sono una cosa diversa rispetto al fenomeno che abbiamo descritto in apertura su internet, propongono delle gestioni molto prudenti, dicendo che sono gestioni garantite, che non c'è alcun rischio. E poi però, leggendo i contratti, si scopre che invece il rischio c'è e ci sono determinati rischi che ricadono interamente sulle spalle del cliente, perché c'è scritto che in caso di volatilità eccessiva del mercato elevata, poi il cliente può andare incontro a determinate perdite. Invece durante le nostre conversazioni, una delle quali tutto garantito, nessuna perdita. Tutto garantito, anzi, nessuna perdita. Moltiplicazione dei pani e dei pesci e basta. Fiducia a occhi chiusi, esattamente. Allora, invece, molto minore la sofisticazione in sostanza dei prodotti offerti, come dicevo, dalle piattaforme accreditate. Anas Jensen, Saxo Bank, il vostro cavallo di battaglia, come quello per esempio di G-Markets, è il cosiddetto CFD, il contratto per differenza. Che cos'è esattamente? Una cosa molto difficile da far apprendere ad un piccolo risparmiatore? No, decisamente no, è probabilmente il derivato più semplice che ci sia in assoluto. Si tratta di una negoziazione tra due controparti, uno che decide di comprare e l'altra che di conseguenza vende. Una parte da due prezzi, un prezzo dove si compra, un altro dove si vende, e il mercato deve essere, e poi serve un mercato sottostante che sia molto, molto liquido. Mm-hmm. Ed ecco che abbiamo i presupposti su cui si possono fare i CFD. Se il mercato sottostante è molto liquido, anche il CFD può essere offerto con una leva finanziaria molto elevata, per cui torniamo al discorso di prima, che vale per i CFD come vale esattamente per il Forex. Prima di iniziare a poter, cioè è facile capire come funziona il CFD, ma forse non tutti si rendono conto dell'importanza di capire l'impatto della leva finanziaria operando. Qualche indicazione pratica allora, Alessandro Capuano, per chi volesse tentare un approccio con questo mercato, l'investimento in valuta: o si può andare in banca, ne so, puntare sulla valuta che più aggrada, che più è consona in sostanza al proprio profilo di investimento, oppure puntare su questo prodotto? Questa è l'unica alternativa? Che cosa si può fare? No, in realtà esistono per avere un'esposizione in valuta. La più classica, la più semplice, è andare in banca e comprare delle obbligazioni in valuta. Però anche qui attenzione, perché spesso ci facciamo ammaliare da rendimenti come quelli sulla lira turca o sulla corona islandese. Perché quelle obbligazioni rendono di più perché hanno un rischio più alto, quindi attenzione anche quello, dovrebbero essere una piccola componente del portafoglio. Alternativamente, ed è quello che secondo me nell'ultimo anno ha preso molto piede in Italia, il trading online sul Forex, cioè all'interno di un mercato comunque di nicchia che è quello del trading online. Noi abbiamo visto uno grosso spostamento di flussi dal mercato azionario, dai future verso il Forex, perché offre delle potenzialità, lasciando stare la leva che è una facoltà, non è un obbligo, quindi attenzione a come lo utilizziamo. Il Forex ha dei vantaggi, è il mercato più liquido al mondo, è aperto 24/24, posso speculare al rialzo, al ribasso, cosa che a volte sui titoli mi è impedito, quindi ho delle libertà nella negoziazione che gli altri prodotti non mi offrono. Uh-huh. E questo è il vero vantaggio. Il discorso è uno, non arrivare sottocapitalizzati, nel senso dimentichiamoci di poter diventare ricchi sul mercato delle valute con un investimento di 1.000 euro. A meno che non vinciamo il Win for Life, lì potrebbe essere un altro discorso. Un ascoltatore che voleva intervenire, non lo facciamo intervenire perché adesso ne voglio sentire altri due, che dice: sembra che parliate di scommesse, investire 200 euro per guadagnarne 200.000, ma a chi servono questi strumenti? Infatti stiamo dando tutte le raccomandazioni possibili per sgombrare il campo da equivoci. Non esistono queste possibilità di concretizzare il proprio sogno, a meno che non sia affidato appunto alla lotteria. Rapidamente, anche se necessiterebbe appunto la loro testimonianza un po' più tempo, Lino da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno. Guardi, io come altre persone, altri amici, abbiamo anche noi contribuito in questa società. Forex Macro, Forex Macro, che purtroppo con la trasmissione di oggi le speranze che avevamo, perché loro ci avevano mandato un comunicato dicendo che il 25 di marzo aprivano. Sì, è vero, lo hanno segnalato anche i colleghi di Panorama Economy. Ma adesso vedremo insomma cosa succede dopo domani, ma dubito. Guardi, dubito anche io, perché sinceramente ci siamo resi conto che era così. Comunque io mi collego anche al discorso che ha fatto l'altra signora precedente che mi ha preceduto. Sì. Sul discorso della piattaforma, oggi come oggi, noi, io e altri miei amici che avevamo anche insieme investito in Forex Macro, stiamo facendo realmente un discorso nostro, nel senso di provare a operare direttamente noi sul mercato del Forex con una società che si chiama il broker Active Trader, la piattaforma è MetaTrader. Vabbè, lì non riesco adesso a sentire, come dire, maggiori dettagli rispetto a questa sua nuova iniziativa. Magari cercheremo in un'altra circostanza di approfondirla. Io però mi chiedo perché, con tutto il mercato assolutamente accreditato che c'è, bisogna inventarsi qualcosa d'altro, appunto, per poter vedersi triplicare il proprio denaro. Non riesco a sentire neanche Antonio da Taranto, che aveva lo stesso la sua testimonianza, ex investitore in Forex Macro, adesso con un'altra piattaforma, Activia Trader. Come fare a stare sicuri? Andate a vedere sul sito della Banca d'Italia, seguite le inchieste di Roberta e Andrea su Panorama Economy, che ritornano su questo argomento anche giovedì. Io ringrazio anche Jensen e Capuano di essere stati con noi. Devo chiudere rapidamente, sentite, c'è la sigla. Buon lavoro a tutti.